известные проблемы в мировых финансах. I'm beginning a conversation with you, with America. Jefferson 2, l'arte della svolta, di Stefano Pistolini. Authorities here say it began in Kinston near the Alabama-Florida state line. Police say the shooter, identified as Michael McClendon, shot his own mother, all her dogs, and then set her home on fire. Io non so se in questi casi sia necessario chiamare in causa la crisi, no? E nascondersi dentro la crisi come se fosse un imbuto, oppure evocare questo mondo contemporaneo pazzo e cattivo, oppure aprire la annosa, si direbbe per ora irrisolvibile, questione delle armi, a meno che qualcuno finalmente nelle alte sfere decidesse di metterci mano seriamente alla circolazione delle armi, oppure se semplicemente imboccare la strada del silenzio e riferire le notizie. Però quando le notizie addirittura si raddoppiano, si sovrappongono su se stesse, senza peraltro nessuna connessione imitativa, vista addirittura la sincronia tragica che le contraddistingue, conviene informare, ragionare e vedere più che altro quali sono le meccaniche, e poi da lì in poi stare a vedere, no, che cosa succede, quali sono gli effetti collaterali, perché esiste anche a questo riguardo un discorso di effetti collaterali. Cominciamo dalla notizia che avete appena sentito, che ha preceduto di poco l'altra, viene dalla Alabama, c'è un bilancio appena aggiornato a 12 morti più svariati feriti, si tratta di un uomo di 30 anni che risponde al nome di Michael McClendon, che ha letteralmente seminato il terrore lungo la strada, veramente in mezzo al nulla. Qui siamo nel cuore agricolo della Alabama, uno degli stati più sonnolenti, più lontani poi dalla realtà, no, metropolitana, delle grandi agitazioni, anche dei grandi tremori, delle grandi ansie legate per esempio alle oscillazioni della borsa, ai quattrini che ci sono e poi non ci sono, ai rischi che si prendono comprando una casa molto grande. Qui siamo in una parte dell'America piuttosto depressa, sicuramente marginale, eppure succede che nei 20 chilometri che collegano le micro realtà di Kingston e Ginevra, questo trentenne Michael McClendon uccida 10 persone e poi alla fine si tolga la vita. Cominci uccidendo la madre a Kingston, vicino al confine con la Florida, uccide la madre e i suoi 4 cani, poi appicca fuoco all'intero appartamento, poi monta in macchina, si sposta verso Ginevra, in una città, in un paesino che si chiama Samson, assassina i nonni, uno zio e una zia, la moglie di un vice sceriffo che abitava di fronte viene uccisa sempre a colpi di arma da fuoco, e in questa occasione cade vittima delle revolverate di quest'uomo anche un bambino di 3 mesi, il figlio della moglie del vice sceriffo. Un altro bambino viene ferito in questa fase della folle strage, in un ospedale della Florida in condizioni molto critiche. Poi McClendon imbocca la statale 52, continua a sparare all'impazzata, letteralmente sul mondo, spara su tutto ciò che è vivo, uccide 2 persone lungo il tragitto davanti a un distributore di benzina e davanti a un negozio, spara contro un'auto della polizia e ferisce la gente a bordo. Poi si ferma a Ginevra nella fabbrica Reliable Metal Products di cui era stato dipendente. Qui viene circondato dalla polizia, costretto a scendere dall'auto, continua a sparare almeno altri 30 colpi, probabilmente disponendo di un M16, ovvero un micidiale fucile e mitragliatore, ferisce gravemente il capo della polizia locale quando la morsa si stringe attorno a lui, gira l'arma contro se stesso e si uccide. Nel 2002 un altro signore, Wesley Devon Harris, di 22 anni, uccise 6 membri, sempre in Alabama, della propria famiglia, anzi della famiglia della sua ragazza, e poi è stato condannato a morte nel 2005. Questo è il più grave fatto di sangue di questo genere che si sia mai svolto nella storia dello stato dell'Alabama. A quiet suburb overrun with emergency vehicles. A local high school now a crime scene. Without warning, a gunman wearing... Dovremmo ricominciare da capo, no? Dovremmo ricominciare a parlare della crisi, di questo mondo pazzo e cattivo, di cose che avvengono dove però noi non ci aspetteremo che avvenissero, perché, ripeto, poi ci sono le città pericolose, i quartieri ad alto rischio, i centri dove l'ansia del contemporaneo si raggruma in modo più visibile, più intenso, da cui ci si aspetta magari non un fiotto di violenza in attesa, ma certo non ci si attende in una scuola di Vindenen, 20 chilometri da Stoccarda, sud-ovest della Germania, della civilissima Germania, dove alle 9:30 del mattino un ragazzo di 17 anni, vestito di nero, come erano vestiti di nero i killer di Columbine, come si vestono in nero i killer, come si veste in nero il killer di Virginia Tech, come un ragazzo che ha perso il contatto con la realtà impara a vestirsi allorché decide di indossare come ultimi panni della sua vita quelle del giustiziere contro il mondo. Allora questo ragazzo di 17 anni è entrato nella sua scuola, che si chiama Albertville Real School di Vindenden, e si è diretto verso due classi dove ha cominciato a sparare a caso e ha ucciso 3 insegnanti e 9 studenti, e poi è salito sull'auto del padre ed è fuggito. E qui la sua traiettoria, no, sembra sovrapporsi immaginariamente dall'altra parte del mondo a quella del Michael McClendon, trentenne americano che fugge per Alabama. Anche questo ragazzo tedesco comincia a scappare per la sua terra di nessuno, questa parte della Germania di cui non si sente quasi mai parlare. Il ragazzo si chiama Tim Kretschmer e dopo aver lasciato la scuola prosegue la sua fuga verso Wedlingen, che è un paesino vicino alla scuola di Vindenden. Il giovane colpisce lungo la corsa 2 passanti, li uccide e infine viene ucciso, abbattuto dalla polizia. Il bilancio della strage è letteralmente incomprensibile, sono 16 morti. Siamo inorriditi, rattristati per la insensata violenza che ha falciato tante vite umane, ferito e traumatizzato molte altre, dice il Presidente della Commissione Europea Barroso, esprimendo condoglianze e stupore, perché cos'altro vuoi esprimere? Sono scioccato dalla notizia della strage avvenuta nella scuola della cittadina tedesca di Vindenen, che dista 1 ora dal Consiglio Europa, dice il segretario generale dell'organismo paneuropeo Terry Davis, commentando la strage. La Germania è letteralmente mutolita davanti a questo fatto incredibile che un suo giovane figlio ha prodotto all'interno di una scuola modello in un angolo perfettamente ordinato di Germania, che non somiglia a quella Alabama addormentata, ma che è comunque un margine del paese, di quei margini che dovrebbero contribuire a tenerlo insieme, il paese, un paese, una nazione, la Germania, gli Stati Uniti, paesi simbolo del progresso, della avanguardia occidentale, dove ai margini succedono fatti come questi che creano, oltre a un totale di 28 morti, una cifra da evento bellico, anche un totale sconcerto davanti al quale appunto si può tacere o si può cercare così di rimettere insieme qualche pezzo, per esempio cominciando a parlare delle armi, il fatto che questo ragazzino avesse in casa, ragazzino tedesco, avesse in casa 16 armi legalmente registrate, un vero e proprio arsenale dei genitori del quale un bel giorno ha deciso di servirsi pochi mesi dopo essersi diplomato in quella scuola, all'interno di quella stessa scuola, di questo M16 a disposizione di quest'uomo che a un certo punto ha deciso di regolare alcuni inspiegabili conti con la giustizia, ovvero con il mondo. Sono due notizie che convergono, no? Convergono da due punti diversi di Occidente, esattamente verso il centro dei nostri pensieri. Elaborare qualche soluzione, qualche risposta non è facile, apprendere la notizia tecnicamente e lasciare che poi noi, in un certo senso, giacendo lì, produca in noi una reazione è forse la procedura migliore che possiamo attuare. Come away with me in the night. come away with me and I will write you a song. Come away with me on a bus. Come away where they can't tempt us with their lies. And I want to walk with you on a cloudy day in fields where the yellow grass grows knee high. So won't you try? Come away with me and we'll kiss on a mountain top. Come away with me and I'll never stop loving you. Ed è strano perché disponiamo di una informazione istantanea e globale, no? Di questi tempi, e se si fa tanto più questo lavoro, si è comunque interessati a capire, a intercettare cosa succede in giro per il mondo, e quindi accade, no, che le notizie, le code così luttuose, tristi, anche un po' fatali, di due notizie come quelle che vi abbiamo dato dall'Alabama e dal sud della Germania si sovrappongono e incredibilmente siano poi quasi stesse immagini, si mescolino in una specie di generale stupore e anche elaborazione del lutto. Abbiamo appena visto l'intervista allo sceriffo che ha perduto la moglie e la figlia in una situazione che, se pensate, rasenta la follia, no? Nella strage provocata dallo sparatore in Alabama, ma sono simili alle immagini che arrivano dalla Germania in quello che non ci resta che definire un giorno di ordinaria follia. Arriviamo allo spazio interattivo di Jefferson, quello nel quale discutiamo con voi di temi caldi, di temi che poi ricorrono nel programma, ricorrerà oggi nel nostro palinsesto la questione della Corea del Nord. Noi abbiamo evocato, caro Emiliano, il dottor Stranamore, perché non so, o perché tutti ci dicono: ma no, vedrai, alla fine non succede niente. Io leggo quello che dicono. Però ci atteniamo alle agenzie. Ma qui dicono: se ci sarà un atto di intercettazioni coreani, di intercettazione verso il nostro satellite contro i nostri scopi pacifici, reagiremo con una risposta del più potente significato militare, punto. Questo dicono i coreani. Anche il nostro ospite a seguire dice: ma no, ma quelli scherzano, coreani noti per il loro umorismo, scherzano, dicono così, poi dopo ti mandano le paste. Boh. Vi abbiamo chiesto, alla luce di questo braccio di ferro, definiamolo così con i termini che si usano in questi casi, fra diplomazie ma anche fra figure militari d'Occidente ma anche del Giappone, della stessa Corea del Sud e la Corea del Nord, che vuole condurre questo suo lancio missilistico, non come dice ufficialmente pare per lanciare un satellite di telecomunicazioni, ma pare per testare un missile a lungo raggio che si chiamerebbe Taepodong 2, capace di trasportare una testata nucleare che arriverebbe in Alaska o Hawaii. E dall'altra parte sono incavolati, gli hanno detto: che state facendo, ve lo tiriamo giù. E la risposta dei coreani è stata quella che vi abbiamo detto, e noi vi abbiamo chiesto: ragazzi, percepite atmosfera da dottor Stranamore, e secondo voi in uno scenario di questo genere ci sono i buoni e i cattivi? Allora, in attesa di capire se quella nordcoreana è una semplice buttata oppure c'è un fondo di serietà e di gravità sotto, scherzano. Io parto subito dai messaggi più simpatici. Per esempio Simone scrive: sembrerebbe il ruggito del topolino, ecco. Che poi nel suo piccolo forse si incavola anche lui. E pone una domanda giustamente importante: ma l'amministrazione Bush non era riuscita a fare un accordo col regime nordcoreano? E poi c'è Nicoletta che invece dice: penso che la Corea voglia fare vedere al mondo che sa giocare a chi sputa più lontano, lasciateli stare, altrimenti puntini di sospensione. E poi anche lei ci chiede se hanno notizie di qualche risveglio di ribellione in questa popolazione oppressa e affamata. Non ci risultano. 100% molti, ha preso il 100%. C'è anche qualche lettore attivo su Facebook che ci ha ricordato questo plebiscito per Kim, 100% di consensi. Giulio, in questi giorni il presidente Kim è stato appunto riconfermato col 100% dei voti all'assemblea. La Corea del Nord è proprio un bel paese democratico, dice Mauro. Era tutto molto più semplice ai tempi della guerra fredda e dei telefoni rossi. Una sana nostalgia, no? C'è un po' di nostalgia di quei tempi. Beh, insomma, Manuel, lo scenario è sempre più complicato, ma occorre tenere una linea coerente e impedire che si venga ricattati. I nordcoreani sono sottoposti a una dittatura a cui farebbe bene una sonora strigliata. Dai, Io ho un fronte di ottimisti. Per esempio c'è Luigi che dice: Obama è partito con il piede giusto, mano tesa e tanta diplomazia, ma con la Corea del Nord la tattica non funziona, non vorrei essere nei suoi panni. Poi c'è Luca che dice: buoni e cattivi erano un prodotto della logica della destra religiosa ultraconservatrice americana, non penso che Obama scadrà, attenzione, non cadrà, ma addirittura scadrà nella stessa trappola. Poi c'è Faber che dice: al centro sempre gli Stati Uniti, che hanno a che fare con tutti contemporaneamente, sfruttano questa contemporaneità di eventi, molto probabilmente hanno la fortuna di avere al timone la persona giusta al momento giusto. Giovanni, se un paese si offre democraticamente alle critiche di altri paesi e offre democrazia alla sua popolazione, non ha nulla da temere. Perché la Corea del Nord si sente sotto attacco? Domanda molto retorica. Mukeba, il regime di Pyongyang è pericoloso, ma non credo che abbia intenzione di causare una guerra. Avrebbe tutto da perdere. Claudio, attenzione a non dare la caccia alle streghe, come nel caso delle armi chimiche di Saddam. Risvolto interessante. Provocazione interessante. Dopo interroghiamo il nostro ospite che ci aspetta già. Federico, per concludere, perché è ora, avete centrato il problema. Il dottor Stranamore rimane incredibilmente, grottescamente, follemente attuale. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again. Do I attract you? Do I repulse you with my queasy smile? Am I too dirty? Am I too flirty? Do I like what you like? I could be wholesome, I could be loathsome, guess I'm a little bit shy. Why don't you like me? Why don't you like me without making me try? I try to be like Chris Kelly, but all the looks were too sad. Tried a little Freddy. I've got an entity in my mind. I could be brown, I could be blue, I could be violet, I could be red, I could be purple, I could be anything you like. Gotta be green, gotta be mean, gotta be everything more. Why don't you like me? Why don't you like me? Why don't you walk out the door? Getting angry doesn't solve anything. How can I help you? How can I help it? How can I help? So I tried a little Freddy. I've got an answer to me. Prendiamo i nostri ragionamenti, lucubrazioni, notizie e quant'altro in giro per il mondo con ospite qui in studio al mio fianco, un amico di Jefferson, Pietro Paganini, presidente di Competre, attualmente però più che Competre è impegnato con la cuffia, mi sembra, hai risolto i tuoi problemi. Competre è un think tank italiano che elabora strategie per il libero mercato e una migliore competizione favorendo l'innovazione. Si occupa anche di management e a questo proposito insegna alla John Cabot University di Roma. Ma soprattutto 5 minuti fa faceva lo scettico dall'altra parte del vetro quando sentiva che davamo con una certa serietà le notizie dalla Corea. Allora suppongo tu abbia una tua visione dei fatti, dimmi come la pensi. Ma quando vengo qui ci prendiamo un po' in giro, anche con queste cuffie che testimoniano che chi era prima di me ha la testa più grossa della mia. Qui abbiamo dei capoccioni, guarda. E mi fai i gesti dall'altra parte. No, non ero scettico, ero dubbioso del fatto che la Corea, insomma, di pazzie ne ha fatte tante oggi, ha ridotto una popolazione alla fame, è fuori dalla qualsiasi commercio internazionale e sarà uno stato che è pronto a scomparire con un olocausto, perché lì dentro si parla di un olocausto, cioè chi la pensa diversamente, certo, viene fatto fuori. Quindi non credo neanche abbiano le risorse oggi per fare, per provocare. Credo piuttosto che siano uno strumento magari nelle mani di qualcuno per provocare gli Stati Uniti e l'Occidente o per distrarli. Quindi comunque un'operazione di disturbo la interpreti così, destinata poi a rientrare. Ma poi quando fanno questo lancio, secondo te lo tirano giù o non lo tirano giù il missile coreano? Su cosa punteresti? Ma no, lo lasciano andare. Lo monitoreranno, cercheranno di capire cosa succede, ma è un modo anche da parte di qualcuno di dire state attenti, esatto, siamo e anche per avere qualche soldo, qualche finanziamento. Certo. Oh, adesso invece con te Pietro, avvicinandomi di più al tuo specifico, voglio fare quattro chiacchiere su questo articolo di copertina uscito su Newsweek, non a firma di uno degli eccellenti giornalisti del settimanale americano, ma di un signore la cui biografia fino secondo me a 4-5 mesi fa uno avrebbe detto accidenti, caspita, questo qui è roba grossa. Allora, il signore si chiama Barton Biggs ed è stato il capo delle strategie globali di Morgan Stanley, e quindi fino a 5 mesi fa uno ha fatto mea culpa, salute, quindi, invece adesso rientra nella sfera di quelli come dire, con la lettera scarlatta o qualcosa del genere. Ha scritto un articolo su Newsweek, forse anche per guadagnare qualche soldo, perché a questo punto ne avrà bisogno anche lui, però parlare agli americani e più in genere agli investitori, ma anche ai cittadini del mondo occidentale preoccupati, se non resi ormai insonni dalla crisi, per recapitare loro un messaggio diverso, un messaggio che lui in modo interessante, devo dire, riassume nella frase finale dell'articolo, che prende di peso dalla introduzione ad opera di Bernard Baruch ad un libro del 1932, quindi in piena depressione. Il libro si intitolava Straordinarie delusioni popolari e follia delle folle, delle crowds, del popolo, ed erano naturalmente storie, grandi storie di crisi, di perdita di controllo dei grandi numeri. E in sostanza lui conclude dicendo quando le cose andavano bene in America tutti si cantava insieme, occhio, bisogna tenere presente che 2 più 2 fa 4, e quindi se le cose, se i conti tornano, andremo bene, andremo verso la ricchezza e il benessere. Poi è arrivato il disastro e ci ha travolto tutti. Abbiamo capito che l'irrealtà è il vero tasso, no, del contemporaneo. Poi però è successo qualche cos'altro, quello che lui chiama un abracadabra, una magia. Ovvero, quando tutto doveva finire, improvvisamente è cambiato il segno degli andamenti economici dell'America degli anni 30. Lui dice, allora, anche qua le cose più o meno stanno così. Non solo abbiamo dato gli annunci che vanno molto male, ma dopo che abbiamo dato gli annunci sono andate anche un po' peggio. Per cui tutto sembrerebbe congiurare, no? Nonostante la rapidità di intervento, la buona volontà, le nuove amministrazioni e quant'altro, verso addirittura una specie di apocalisse sullo sfondo. Ebbene, io vi dico, a questo punto invece cominciate a ragionare, se possibile, in modo lucido, e magari anche pensate anche di muovervi, di fare qualcosa. Che reazioni, che sentimenti ti desta un discorso di questo genere, fatto però da signor Morgan Stanley, o quasi, insomma? Beh, da Morgan Stanley, ma l'articolo è condivisibile. Da Morgan Stanley fa un po' anche il lobbista, cioè cerca di riportare il business dove il business dovrebbe andare. Fa un'analisi corretta, soprattutto riconosce una serie di errori fatti anche di persona e nelle analisi precedenti. Riconosce anche alcuni aspetti positivi della riforma che sta facendo e che sta portando avanti Obama. Ne riconosce alcuni negativi, come la questione fiscale, cioè il tassare i ricchi, tassare il capital gain, la finanza, e invece detassare la classe media. E guarda avanti, dice, è ora di intervenire sul toro, cioè ridare vita al toro e mettere da parte l'orso, ritornare ad investire, anche perché, e questo lo vediamo tutti i giorni, le azioni hanno raggiunto livelli bassissimi, per cui l'abracadabra potrebbe essere quello che dicevi tu precedentemente, riandare ad acquistare queste azioni per ravvivare il mercato. Credo che sia anche uno stimolo, qualcuno direbbe berlusconiano, cioè di non vedere tutto eccessivamente negativo, ma di provare ad uscire. Azione, muoversi. Fa un'analisi più borsistica, però. Il problema degli Stati Uniti non è oggi degli Stati Uniti, il problema anche nostro, italiano, europeo, non solo, non è unicamente legato alla finanza, è anche legato alla finanza. C'è un problema congiunturale, c'è un problema di cicli economici e di recessione. La finanza può sicuramente aiutare, ma sono necessarie probabilmente delle riforme, non solo politiche, ma delle riforme proprio del sistema economico. Cioè avremmo bisogno, questo lo si diceva ieri ad un convegno con alcuni coach aziendali americani, cioè c'è bisogno di una nuova visione del sistema imprenditoriale, che può essere quello che la Silicon Valley ha rappresentato negli ultimi 20 anni, cioè un nuovo paradigma economico che ci dà una nuova via e che ci permette di percorrerla. Come uscirne, sai, dalla crisi del 29, su questo ho scritto tra l'altro anche insieme alla nostra amica radiofonica Deborah Rosciani, come uscirne, la crisi del 29 si è usciti con la guerra, spero che non sia la stessa situazione nel però tutti caso. Fanno finta di no, questa è come dire il sottotesto, cioè. In realtà poi si dice che già prima, insomma, tutto era stato raddrizzato. Ma non è vero che fosse stato raddrizzato, i numeri sono abbastanza eloquenti, soprattutto sulla disoccupazione negli Stati Uniti negli anni 30. C'è un elemento fondamentale che ci differenzia da allora, che è un complimento a Obama, ma non solo Obama, credo anche ai governi europei, che se si può discutere sull'interventismo statale, essere d'accordo o meno d'accordo sulla politica degli stimoli o l'eccessiva quantità di denaro che l'Europa e i singoli stati sono disposti a mettere sul mercato, però ci sono elementi assolutamente interessanti che noi dobbiamo andare a cogliere, che sono per esempio quello che non sono state poste grosse barriere o forme di protezionismo. Il protezionismo oggi è non molto remoto, ma è quasi remoto, cioè mentre nel 29-30 ci furono le famose riforme che posero negli Stati Uniti delle tasse in ingresso sui prodotti, questo oggi per fortuna negli Stati Uniti non è successo. Non posso parlare di un mercato interamente libero, però non sono state poste delle barriere eccessive in entrata e quindi non si è scatenata quella catena che nel 29 poi bloccò il commercio internazionale. Senti, due altri rapidi oggetti di riflessione. Prima di tutto un dato che è arrivato nelle ultime ore e che poi fa capo a un ragionamento un po' più grosso, ovvero probabilmente è già terminata, come dire, il fidanzamento, la luna di miele, chiamiamolo ti pare, dell'Obama bipartisan, dell'Obama conciliante, dell'Obama della casa riunita, unita, la casa si sta progressivamente ridividendo e bene o male, almeno in questo senso, soprattutto nei confronti della emergenza economica, bene o male il fronteggiamento Obama, contrariamente a Roosevelt, dovrà affrontarlo e temo anche seriamente. Al tempo stesso abbiamo assistito poco fa a una ennesima prestazione pompieristica di Obama in televisione, una lunga intervista fatta per dire che lui ai suoi due fondamentali interlocutori economici, Summers e Geithner, per carità ci crede al 100% e che anche noi per favore ci credessimo. Ecco, vorrei su queste due situazioni un punto di vista. Ma sai, Obama si trova in una situazione atroce, non credo che nessuno di noi voglia essere... Certamente vogliamo fare tutti i presidenti degli Stati Uniti, ma non in questo momento, cioè si trova un boomerang in mano, fondamentalmente è stato eletto anche a causa della crisi, cioè si è trovato in una condizione favorevole dal punto di vista politico-economico, oggi si trova invece in difficoltà nel doverla risolverle. I repubblicani, e questa è una informazione dall'inside, devono necessariamente rompere l'atteggiamento bipartisan di Obama, altrimenti politicamente si trovano morti, cioè non sanno più che strada percorrere. Obama politicamente li uccide, allora loro devono necessariamente differenziarsi, a volte cadendo sul populismo. il ragazzo prodigio, ex ragazzo prodigio. Mi vuoi provocare su quello? Ho cercato di informarmi, di ma i repubblicani non se lo sanno nemmeno loro spiegare, quindi sicuramente è stato uno straordinario attore. Hai un ammiratore qua, ci ha appena scritto, dici che sei finalmente... temo ore purtroppo, purtroppo per te naturalmente, dice che sei uno che tira bei calci a Delano Roosevelt e a Keynes, insomma... Non mi permetterei di tirare, ringrazio l'ammiratore, facciamo finta che è un'ammiratrice, su Roosevelt e Keynes, dobbiamo anche considerare che quelli erano chiaramente dei tempi profondamente diversi, l'importante è aver imparato la lezione, sembra che l'abbiamo imparata, però sai quello che è bello, ne parlavamo sempre ieri a questo convegno, è che l'Europa che attaccava il liberismo scatenato americano, il reaganismo, il thatcherismo in Inghilterra, oggi comunque pende dalle labbra degli Stati Uniti nuovamente, quindi siamo qui tutti ad aspettare che Obama faccia una scelta o faccia una cosa giusta o faccia compia un errore. Rush Limbaugh aspetta un'altra cosa, aspetta che cada. I repubblicani aspettano un ragazzino, quindi hanno ancora 15 anni da almeno. Da venire, va bene, grazie. Grazie a voi. A Pietro Paganini, lo ritroverete presto qui a Jefferson. Dunque, facciamo ora un altro collegamento con un altro amico e frequentatore del nostro programma, che tra l'altro spesso nelle sue apparizioni così risveglia interesse e anche qualche entusiasmo da parte di chi ci ascolta. Si chiama Stefano Cammelli, è uno storico, esperto di Cina, un paese dove si reca spesso e volentieri. Ha scritto un libro molto acuto sugli scenari orientali che si chiama Ombre cinesi, pubblicato da Einaudi, e oggi lo vogliamo sentire per almeno due fattori caldi in circolazione, ma prima di tutto lo salutiamo. Ciao Stefano, come stai? Ciao, buongiorno a tutti. Allora, vorremmo prima di tutto coinvolgere anche te nel discorso che oggi ha attraversato un po' come un filo rosso la nostra trasmissione, ovvero su questo scambio, tra virgolette, di complimenti tra Corea del Nord e Stati Uniti, e con gli Stati Uniti naturalmente la Corea del Sud, il Giappone e altre potenze attorno a questo lancio di un missile che potrebbe essere un satellite delle telecomunicazioni o forse qualcosa di molto peggio. Come sai, il braccio di ferro è partito subito, i generali americani hanno detto chiaramente di essere pronti ad abbatterlo, la Corea del Sud ha risposto che un gesto del genere verrebbe considerato un attacco a tutti gli effetti e si risponderebbe con azioni militari vere e proprie. Mi sembra di capire che la maggioranza, anche tra gli ascoltatori che hanno ragionato attorno a questo tema, tenda a tenere basse le aspettative, a non credere fino in fondo alle parole grosse. Tu? Io credo che la prima cosa da pensare sia a Gerusalemme e a quel momento drammatico di quasi, mi pare, una decina di anni fa, qualcosa di meno, in cui si arrivò ad offrire ad Arafat e ai palestinesi la pace e naufragò per la ostinazione di Arafat. Io credo che Obama abbia ben chiaro in testa che si possono perdere le guerre in maniera disastrosa, ma si può anche perdere la pace in maniera disastrosa. Cosa vuol dire questa riflessione presa così a grande raggio? Vuol dire che, a mio avviso, tutte queste schermaglie sono semplicemente la sistemazione delle sedie attorno al tavolo su cui comincerà la discussione. Certo. E quindi non c'è un problema reale di un missile, di una pericolosità della Corea del Nord. Voglio dire, cerchiamo di essere seri, noi abbiamo gli strateghi americani sostengono che questo missile potrebbe portare testate nucleari che potrebbero colpire Alaska e Hawaii. Gli americani naturalmente possono averci ragione, ma gli americani sono molto preoccupati perché loro considerano da sempre lo spazio una proprietà loro e russa. E già su questo i cinesi erano intervenuti l'altro anno demolendo con dei missili, dei satelliti in frantumi, diciamo della spazzatura celeste, richiamando il principio che lo spazio è di tutti e che nessun paese può in qualche modo arrogarsi il diritto di dire che... Di governare lo spazio in pratica. Ecco, allora questo intervento della Corea del Nord si sposa molto bene con i desideri cinesi, ma si sposa anche molto bene, ripeto, con la preparazione delle trattative, perché è certo che Obama ha sparigliato le carte nel momento in cui dichiara finalmente che in qualche modo bisognerà sedersi al tavolo con l'Iran e discutere. È evidente che c'è una risistemazione generale della diplomazia americana, certo. E è altrettanto evidente che gli altri fanno altrettanto, e cioè le persone che si sentono target di questa nuova iniziativa diplomatica cominciano a mettere le mani avanti e dire: oh, momento, non è che siccome sei simpatico e popolare io ti devo dar ragione per forza. Ecco, capito? Io penso che sia uno scenario di questo tipo, e che sia all'interno di questo contesto che si deve capire perché i generali dicono: interverremo subito abbattendo, certo, perché la Corea, certo, del Nord replica dicendo: noi dobbiamo, abbiamo il diritto di difenderci, di proteggerci, certo. Molto chiaro, molto chiaro, Stefano. Passiamo rapidamente al secondo scenario che lungo questa settimana ci sta accompagnando, un'altra area di crisi naturalmente è quella del Tibet, con gli anniversari che si sono appena celebrati, un momento tormentato con il Dalai Lama che è tornato a parlare, nel frattempo rapporti cino-americani che vanno verso l'allarme almeno arancio per i reciproci richiami. Che cosa come aggiorneresti questo scenario a tutt'oggi, all'attualità? Io partirei da una frase che ho letto stamattina in un bell'articolo di Franco Venturini sul Corriere della Sera, che mi ha fatto fare un salto, perché questa è veramente l'escalation. Tant'è vero che pensavo di pubblicare su Polo News uno dei miei rari commenti, perché in realtà noi traduciamo, in cui dico: è iniziata la guerra del Tibet. Perché qua ci si esprime in questo modo, dice Franco Venturini: la Cina, con le sue gravi carenze in tema di diritti civili, è un terreno di affermazione della nostra identità liberal-democratica. Io lo trovo chiarissimo come principio e agghiacciante come teoria. Traducilo per noi, aiutaci. Voglio dire, la Cina non è terreno di nessuno, la Cina è terreno dei cinesi. Io non so, voglio dire, come possa nascere questa teoria, ma abbiamo lezioni di democrazia da dare noi, certo, dopo otto anni di Bush, dopo otto anni di menzogne televisive. Noi abbiamo veramente lezioni da dare a chi che sia su come ci si comporta negli altri paesi? Ecco, io sono veramente allarmato, e dispiaciuto, perché, ripeto, il problema del Tibet è un problema serio, è un problema che si gioca nel campo dei diritti umani, ma non nelle ingerenze degli affari di un altro paese. A mio avviso bisogna tracciare un confine molto preciso, e temo che la Corea in questo contesto venga anche utilizzata. C'entri qualcosa, certo. Va bene, sono chiarissime le tue posizioni, delle quali ti ringraziamo, che sicuramente desteranno reazioni, delle quali ti metteremo al corrente, sulle quali torneremo a discutere ancora con Stefano Cammelli. Vi ricordo tra l'altro che potete trovare i suoi punti di vista in un sito che si chiama www.polonews.info, che raccoglie solo fonti direttamente tradotte dal cinese. Adesso, prima che chiudiamo, una cosa ve la devo dire: credo che interessi a una percentuale intorno al 2%, gli ascoltatori, me la dico lo stesso. Allora, cari lincolniani all'ascolto, quanti siete appassionati alla figura di Abramo Lincoln? 5, 9? Bene, vi informo che è stata finalmente letta la iscrizione. Vedo che Pietro Paganini si è fermato ad ascoltare, lincolniano di vecchia data. È stata finalmente decifrata l'incisione nascosta all'interno della cassa dell'orologio da taschino di Abramo Lincoln, e devo dire che il messaggio ci lascia interdetti, ma noi in quanto tale lo riferiamo ai 5 lincolniani d'Italia. L'incisione è questa: Jonathan Dillon, 13 aprile 1861, Fort Sumner è stato attaccato dai ribelli nella data qui sopra, grazie a Dio abbiamo un governo. Che non è male, grazie a Dio abbiamo un governo. Grazie a Dio abbiamo un governo. Questo è Jefferson, Stefano Pistolini, in redazione Milano Enrico, in regia a Roma Alessandro Cappini, a Milano Fabio Cantadori, mail jefferson2@radio24.it, le pagine Facebook, redazione Jefferson 2 per parlare con noi, Jefferson 2 Radio 24, Express Yourself, la bacheca per partecipare ai nostri focus, ai nostri dibattiti, alle nostre discussioni. Andiamo in replica a mezzanotte, ci trovate anche in podcast sul sito di Radio 24, www.radio24.it, oppure torniamo domani come sempre attorno poco dopo le 4 qui su Radio 24, e come dice Abramo, grazie a Dio abbiamo un governo, io questa non me la scordo, me la segno. Jefferson 2, l'arte della svolta.